due cosettine, due sha, due sha di lenza, e da una parte all'altra gli faccio due tirantini proprio allo stilo. Ma non li faccio niente. Cosa tu? Non li fa nulla. Ah, non già le fa, ma c'è stato, le fate nulla tu. Ma vabbè, considerate la mia altezza, quindi la mattina ci vuole qua, non è, posso permettere l'uscio di mettere altri tipi di antenne, va bene, manco male, giovate in tempo in tempo, trascorro un bel inverno quest'anno, l'anno scorso non dormivo, quando c'era il vento, per le direttive, mamma mia che casino, che come fanno, no? Non ho capito come fanno. Ma come fanno, stanno appresso. Almeno un giorno alla settimana. Ho capito, no? Ci stanno appresso, dei buoni buoni tralicci in di 20 metri. Ma io non sono a 20 metri, io ho un traliccio di 51 metri, quindi stiamo parlando di più del doppio, capito? Perciò non è fattibile una cosa del genere da me, ma nel modo più assoluto, credimi Antonio, nel modo più assoluto, perché fortunatamente non è successo niente, anzi, le ultime raffiche di maestrale che hanno fatto mi avevano staccato nel movimento, evidentemente non era avvitato bene, mi avevano staccato una bobina, è caduta per terra, non si è rotta. Ma dal momento in cui ho visto una cosa del genere, gli ho detto, boh, basta, devo toglierne tutto, e così ho fatto, gli ho tolte completamente, non c'è più niente del tetto. Non mi interessa, io non devo fare danno e no, e voglio dormire la notte, non me ne ha fatti nulla delle direttive. Ti capisco, ti capisco, infatti io la maggior parte delle persone che conosco, che comunque fanno attività radio con direttive, hanno tutte quante casa loro, magari sono fuori città, hanno una casa in campagna, che anche se dovesse volare un'antenna, malauguratamente li può cadere addosso alla macchina, ma è sempre identico. Però se ti cade addosso a qualcuno, cioè non è quello il discorso. Tanto una bobina da 50 metri d'altezza ti veglia a capo e ti scende in legge, non è che è così leggera, già le conosci, quindi no, smontate e vendute pure, tutte le antenne vendute in continente, rotore, control box, tutto, cavi di alimentazione, venduto tutto, non c'ho più niente. C'ho la filare, boh, una filare che fa 15, 20, 40 e 80. Mi diverto con quella quando ho voglia di chiacchierare. Quando no, non me ne ha fatti nulla. Non è fattibile, tanto credimi, non è fattibile. Io ci ho provato perché appunto mi hanno detto che non era un grosso problema, invece il problema c'è perché è troppo alto, non c'è niente da fare. Troppo, troppo, troppo. Va bene, avanti Gianni, riprendi. Ah, giù un peso. Lo so, ma guarda, anche antenne leggere quando cadono dall'alto triplica la velocità, quindi tu immaginati se ti caggi in campo. È una legge fisica che quando cade dall'alto è sempre più potente l'impatto. Ho capito. Io non avevo neanche le antenne assicurate di quelle dimensioni, perché non sono socioari, quindi non avevo nessuna assicurazione e avevo sempre paura, anche se parlando con l'amministratore, io sono caposcala, quindi ogni tanto, ogni 2-3 mesi facciamo riunioni caposcala assieme a lui, parlando così e più o meno, ho detto ma le antenne che ho sul tetto, se dovesse succedere qualcosa, ho detto se cade giù qualche pezzo su qualche macchina, siamo assicurati, sì, infatti assicurato, non avrei problemi, capito, però ho detto, me l'ha detto da lui, ma in ogni caso le avrei tolte lo stesso, quindi non c'è problema. Non trovi tranquillo, no? Quando per vento stai con la paranoia, poi quando sono così in alto ancora peggio. Anche perché sono quattrini, no? E che c'erano soldi, ne ho recuperato la metà perché è normale, però almeno sono tranquillo, vai. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, c'è solo la mappa messa dove era la direttiva, quindi c'è una qualificazione, già l'hanno vista i due Luca, la paura, mi sono messo lì, l'ho cambiata subito, al momento in cui quel tubo era libero, quella qualificazione era libera, ho sfruttato quella, l'antenna è sistemata a vita, e poi ce ne sono due piccoline, ma piccoline sono raffiche un bel, però ho aperto la finestra, l'ho dovuta chiudere, raffiche un bel, un bel, un bel. Avanti, bombo! Dai, riprendo io che mi saluto, dai che sto andando via. Ciao Anto, ciao, se voi siamo qua anche dopo. Non ti ho detto come sto uscendo, bene? Benissimo. Ok, dai, MBP5, Intec 3104F. Avanti già. Cannonata, sì. Ma cannonata. Ciao Anto. Non lo dici, lo si riconosce. Andando via stai Anto. Sì, mi sto spostando, sto andando via la campagna, me ne sono a casa. Non voglio essere un po' per il video. Ah, tu, ti volevo dire una cosa. Ho visto su eBay che vendono tutta l'ambaradam per l'antenna tua. C'è la molla, tutto quanto, più c'è quel pezzo lì, tutto 28 euro. A me mi serve solo il gel piantone. C'è tutto, c'è praticamente l'attacco, c'è quella burchia che si mette dentro e poi mi pare anche il capo, non me lo ricordo, però c'è, se lo cerchi metti Sigma PDC 800 e ti appare anche quello. Sì, dai, dopo lo guardo. Ok, grazie già. Dai, Cla, sì, appena arrivo a casa poi, se... Arrivi, ci sentiamo dopo da casa. Se non, se il vento non si è portato via l'antenna. Io tu stavo cercando la Minox per mettermela fissa in macchina, ma non la trovo. Ma lo sai che ne ho visto una in vendita io tempo fa? Ne stanno vendendo due addirittura. Mi sembra 50 euro tutte e due. Vabbè, di due non me ne voglio nulla, ma me ne serve una. Serve una per metterla fissa, capito? Vabbè, ma quando le paghi 2,50 euro la ti affitti. Cazzo, costava 60.000 lire nuova. Una. Era buona, la Minox è la meglio della Mini Turbo. Lo so. Però ormai... Se metto tutto, queste erano ancora imbuzzate. Sono persone che hanno anche io, molte volte ho veduto delle cose tempo fa che avevo in garage imbuzzate, no? Che non c'entrano niente con il baracchino. Ma come le ho messe, le ho venute il giorno dopo, mi hanno contattato. Subito mi ha detto, guardi, le sto inviando i soldi. No, ho detto, guardi, no, invia subito il codice per la transazione bancaria, dice che mi invia i soldi. È meglio così, è trovato subito da vendere, va bene. Ben venga. Ma io quella Minox la sai da quando la sto cercando, so perché poi adesso tutti i negozi li hanno messi o su Amazon oppure su eBay. Non ce ne sono più negozi singoli dove tu puoi contattarli e poter chiacchierare col principale, col padrone. È una cosa un po' così, capito? Vabbè, questo è un periodo particolare già. No, oh, ma adesso proprio hanno trasferito tutti i negozi e tu, quando tu contatti il negozio è appoggiato a eBay, per dire, o eBay o Amazon. Sì, infatti non parli più con nessuno. Sì, vabbè, ancora alcuni ce l'hanno in modo per poter contattare. Però, ripeto, dobbiamo metterci in testa che queste cose scompariranno. Amica mi ha detto, che cosa ne fate dei baracchini? Non c'è WhatsApp? Ma vabbè, cosa c'entra? Io non c'è su YouTube, se per quello cosa c'entra? Cosa trovo più a fare il trucco quando ci sono i posti dove puoi andare a farli truccare, farli fare unghie, oppure c'è chi se le fa a casa, che compra lo smalto, oppure puoi andare in un corso di bellezza e farti sistemare tutto, ognuno ha le sue cose, no? È quello che gli ho detto io, sono hobby. Poi quando è nato il baracchino non esistevano i cellulari, quindi tu ti puoi immaginare quanto era comodo in macchina, eccetera, eccetera. Ti ho spiegato quello. Vabbè, ma quella è la roba degli anni 70, quando ancora erano illegali, che erano necessari, perché comunque tu pensa che avevo un radiotelefono montato nella 127 negli anni... nel 94, un radiotelefono di cui la lunga distanza della gomma montato in macchina, che era illegale, eppure ce l'avevo. Di quelli grandi, ce l'avevamo anche al Ciso, noi dove facevo servizio ambulanza all'inizio. Io ne avevo una stazione a carica, quando abitavo a Sacro Cuore, no? spalle grande e la cornetta che mi portavo con l'altra parte in macchina, ma da Trentino riuscivo ancora a telefonare. Ehi, ci credo, sì, perché li usavamo anche noi, quando andavamo nei reparti ci riportavamo appresso, quando ci chiamavano dalla sede per fare altri trasporti, rispondevamo da quello. Ci facevamo un'assistenza, no? Cosa, Vito? Una volta Tex abbiamo fatto l'assistenza in quegli anni, papà. Comunque il baracchino era utile, io forse tu non c'eri ancora, ma noi facevamo anche antincendio, vedette eccetera eccetera, facevamo un po' di tutto, segnalazioni di incendi, quando lavoravo, quando ero con la protezione civile facevamo anche queste cose, uscivamo con le macchine nostre per fare i giri. No, io c'ero, è che dal 90 al 93 ho fatto 3 anni di marina, quindi poi, vabbè, dai, mi stanno chiamando, ciao, ci racconterai la storia un altro giorno, avanti Cla. No, questo 90 al 93 perché l'ho fatto anch'io in marina, volevo sapere se ti avevano rinchiuso per 3 anni. No, ho messo la firma. Ah, e te ne sei andato, passerete, sì, va bene, e vabbè, ho fatto la stessa cosa, potevo rimanere lo stesso, vabbè, io ho salvato il CISOM in un determinato anno, ho salvato il CISOM, me l'aveva chiesto Giampaolo RC2. Si decide di Porto Torre. No, ci siamo di Sassari, via Pascoli. Via Pascoli, non ce n'era Cison, via Pascoli. Il Cison era cosa, Latte Dolce, dove c'è l'ufficio di collocamento, lì. E poi in via Pirandello siamo spostati. C'era un Cison vecchio dove c'era pelliccia prima, quello che è della Croce Rossa, quello lì, ce l'avevano in via, mi pare che fosse la parte di via Civitavecchia, quella zona lì. Vi eravate già trasferiti, dico via Pascoli, per me è sempre via Pascoli, quell'inizio è via Pirandello, però ho capito, già mi sono capito io, che il tuo presidente si chiama Giampaolo lo stesso, così è. No, si chiamava, c'era Agostino e Giancarlo. Scusa Giancarlo, sì. Quando si sono trasferiti lì avevano come base, no, all'interno un alinco UHF, e in macchina nell'ambulanza ne avevano una e qualche altro mezzo, allora poi stavano iniziando, c'avevano lo stesso un VHF, avevano un VHF ed era successo un patatrac, te lo dico di persona quando ci vediamo che cosa era successo, e fortunatamente il mio intervento è stato utile perché ho fatto una dichiarazione che le radio erano le mie, capito? Mangio bigliato, un caffiettone e non ti dico che cos'altro, però è andata bene e me le avevo prese di nuovo tutte, io ce l'avevamo divise, io e Torella e Bonani. Sì, già mi ricordo tutto. Allora io al CISO c'ero 14 anni e quindi Claudio ero sempre lì, a te non ti ho mai visto lì. 14 anni c'ero al CISO, cioè praticamente da quando era Latte Dolce, da quando ho aperto, anzi il CISO ha cominciato esattamente alla Croce Blu, dove c'ero io prima alla Croce Blu, e mi aveva, conoscevano a me Giancarlo, e mi ha detto se potevano fare una cosa, siccome gli avevano regalato un'ambulanza, ma loro non avevano nessune nozioni per fare servizio ambulanza, e quindi ci hanno chiesto di fargli i corsi di pronto soccorso, gliel'ho fatti io e un mio collega, abbiamo fatto i corsi di pronto soccorso, e quando ci chiamavano uscivamo con l'ambulanza loro per insegnarli come fare. Niente, abbiamo fatto diversi interventi insieme, avevamo dato un 238 da Roma. E poi ci avevano comprato le altre ambulanze e avevano aperto stato lì a Latte Dolce, anzi prima mettevano le ambulanze dai salesiani. Poi hanno aperto, si hanno aperto la sede lì dove c'è la circoscrizione, dove c'era anche il CERT, eccetera, eccetera, lo stesso palazzo. E c'ero io sempre con loro, perché io me ne ero andato dalla Croce Blu e sono andato con loro. E poi sono stato sempre lì. Ho fatto Avvis, Croce Blu e poi sono stato al CISO per 17 anni. Io non appartenevo al CISO, non disciassi, arrivo al CISO di Porto, c'è con Giampaolo RC2, ti sto dicendo. E tramite Giampaolo RC2, Giancarlo ha chiesto a lui, perché quando è successo il casino che è arrivata la postale con questo radio, mi sono messo in mezzo io, ho capito, tramite il CISO di Porto Torres, ma non ti dico, il casino che è successo, vabbè, perché appunto le radio loro non la potevano tenere. Infatti dopo avevano preso i 43 mega con i soldi della vendita di quelle lì, me ne ero occupato tutto io, ma io non facevo quello che facevi tu Gian, io facevo un altro tipo di servizio con CISO a Paolo Torres, ero l'unico radioamatore che c'era, quindi mi occupavo di altre cose, capito? Per quello te lo sto dicendo, tutto lì. Vabbè, comunque era andata bene, ma bene, sono allora. Allora c'erano 6 milioni di multa, c'erano, cazzo. Allora io a Giancarlo, sai quante volte gli ho detto che non si potevano tenere? Lui mi diceva, ma guarda che noi li usiamo solo per soccorso, non li usiamo per fare cose. Giancarlo, la legge è legge, bisogna fare, bisogna avere il patentino per quelle radio lì. No, ma cosa mi dice? Bindaceni, alla fine poi hanno guardato male a me quando è arrivato lo scopo, se mi sa che mi l'avevo mandato lì. Che all'interno, come nel nostro gruppo, ci voleva un operatore radio, un radioamatore, capito? Perché ti posso dire che a Porto Torres io ne usavo una simile a quella, però la usavo solo io ed era intestata a me. Ci avevo fatto il cambio di stazione, perché c'è anche le normative, dove avevo una seconda stazione con operatore sempre io, ce l'avevo in Viale delle Vigne, dove c'era la scuola vecchia, dove poi è andato a abitare Carlo Titano, per capirci, capito? E invece voi non ne avevate di questo sistema, e lì era successo il casino. Comunque era andata bene, era andata bene, meno male era andata bene, anche perché all'interno del contesto c'erano delle persone che conoscevo, quindi era andata bene, se no 6 milioni di multa c'era. 6 milioni di multa, ma ricordo la faccia di Giancarlo, cazzo, c'era anche attaccato con Giampaolo. C'era anche attaccato con Giampaolo, figurati, mi ricordo perfettamente, proprio per questa stronzata. Perché era duro quell'uomo, io mi ricordo. Aveva sempre ragione lui, qualsiasi cosa le dicevi, no, non è così, ma qui, ma là, ma cosa si ritrevi? Giancarlo c'aveva questo vizio che quando lo facevi incazzare prendeva i piedi e se ne andava a casa, allora ti girava la spalla e se ne andava via. Si incazzava come un Buddha, gridava come uno scemo e se ne andava. Poi telefonava alla moglie e si diceva, ma cosa le avete fatto a Giancarlo, che è venuto incazzato a casa che non si può nemmeno guardare in faccia. E si è incazzato lui, stavamo discutendo e lui se la prende a cuore, certe cose si incazza più del solito. Oia. Poveraccio, sia lui che Agostino, tutti e due, quando c'erano loro, il CISO andava dritto, dopo è andato in decadenza, dico la verità. Loro venivano criticati per questo, per l'altro, però quelli che mantenevano in alto il CISO erano loro. Ed eravamo i più forti di Sassari, quelli che avevamo fatto per primo il 118, eccetera, eccetera. Quelli che avevamo più trasporti, noi, polisoccorsi, eravamo quelli che la volevamo di più, poi sono subentrati tutti gli altri. E poi siamo andati tutto fare, con soccorso Sarto. Io l'ho seguita quella faccenda già. L'ho seguita. Abbastanza, l'ho seguita anche. No, bene, a Porto se facevamo altre cose, servizio ambulanza, lo faceva l'Avis, se noi facevamo altre cose. Ed era abbastanza anche ben conosciuta la sede di Porto, ma poi non so che fine abbia fatto. Ma lì in via Pirandello vero che ci sono sempre 2 metri, ma c'è qualcuno che opera, praticamente opera ancora lì, ci sono oppure non c'è più nessuno? Sì, diciamo che fanno qualche manifestazione, qualche cosa, ma servizi d'urgenza non ne stanno più facendo perché la storia è questa: per fare 118 ci hanno detto che bisognava essere iscritti all'albo regionale, noi eravamo iscritti all'albo nazionale, quindi cosa dovevamo fare? Un'associazione a parte, cioè per dire, cosa ti posso dire, la potevamo chiamare Pentagono o roba del genere, ma non ci sono, noi abbiamo le targhe paramilitari con il targhe SMOM, praticamente come CISO non potevamo farlo, potevamo farlo solo esclusivamente se facevamo, nominavamo l'associazione con un altro nome, quindi chi era del CISO non ha preferito lasciarlo così e basta, e poi non c'è, secondo me non c'è più gente che si impegna come una volta. Giancarlo si impegnava, andava a tutte le riunioni regionali, questo, quell'altro, andava fuori, era sempre impegnato per il CISO, poi la mattina era sempre lì, lui faceva servizi a tutto andare, non lavorava, quindi faceva servizi così, purtroppo. Lui si lamentava sempre, veniva lì e noi a volte lo prendevamo anche in giro, poverino, perché veniva e diceva, oh, è tutto dolore, sono tutto dolore, invece aveva avuto dei microinfarti e lui non si rendeva conto di questo, questi dolori che lui aveva nella circolazione del sangue e cose, aveva avuto dei microinfarti e poi quando l'ha avuto proprio quello che l'ha gabbato, ci è rimasto. Me lo ricordo, l'ho conosciuto tramite Giampaolo, ci ho parlato, eccetera eccetera, una persona abbastanza umana nei confronti degli altri, molto, molto presente, soprattutto per il volontariato. Vabbè, ma il giorno si è cagato sotto, perché quando, se ti ricordi bene, io me lo ricordo come oggi, quando è entrata la postale con la Scorradio, allora la Scorradio era in voga, si è cagato sotto la virgola, perché hanno chiesto chi era il responsabile, subito lui, perché chiaramente quelli erano senza divisa, erano tutti borghesi, erano in quattro, tutti borghesi, quindi io sono io il presidente, benissimo, cazzo, quando sono presentato è diventato bianco. No, lui non c'era, c'era anch'io il giorno che sono venuti, non c'era lui, hanno preso i nomi solo dei volontari e poi sono ritornati. Comunque sia Giancarlo che Agostino, tutti e due erano civili, lo sai. Certo, lo so, sì, no, io c'ero la seconda, quando sono tornati, che c'era lui, perché le hanno detto appunto, se ti ricordi, che tornavano di avvisare il presidente che volevano a lui, capito? Perché lui aveva le carte in mano della situazione, è lì che ha preso il colpo. Ci sono, grazie. Ah, senti la finestra fischiare, no? Una raffica di vento. Sembrava che ti fossi scorreggiato, sinceramente. Sento. Agostino si chiama Vago di nominativo, è Giancarlo Ginchi. E già me lo ricordo. No, è una fuggibile con la zanzariera che fa quel rumore. Allucinante. Ma sono raffiche di vento un bel forti, Non ho il computer acceso per che raffiche ci sono, ma penso che siano abbastanza alte. Va bene, bello, dai, io inizio a infilarmi le scarpette, comunque io sono sempre con l'Inter, che non mi hai detto niente, quindi anomalie non ce n'è, alternate non ce n'è, fischi non ce n'è, sta andando tutto bene, dai. Claudio, che si è rimessa a posto, perché era troppo bassa, era troppo bassa il coso, la radio, i watt. Cosa tu? Tutta l'antenna mi sciocchi tende. E lascia la giochità, già non è quasi nota, a fottettini. Sì, già, li ho girati, a 10 col watt, ma troppo glielo ho portati nuovamente a 5, ne aveva 3 e mezzo, li ho portati a 5, sono 5 e modulati 6, dai, non di più. Se fate modulati, comunque 5 di PTT li ho fatto, almeno è così, rimane così. Il microfono è più 5 con l'adattatore, adesso poi domani, cioè lunedì, si compra il coso, quello a 5 si cambia direttamente, dai, la prova li ho già fatti. Vado a mettermi le scarpe, a prepararmi per portare il cane, avanti a tu. K Cla, attaccali l'RM Italy. Che sentiamo come va con la radio. Devo fare, non ce l'hai lineari qua in questa scrivania, tu lineari ci vogliono gli alimentatori per attaccarli, io ne voglio capire in mezzo alle balle. Devo scoggettare qualcosa, o faccio qualche altro mobile in fondo laterale, metto i lineari lì dentro con l'alimentatore da 60A che li alimenta e mi porto i cavi alle radio, ma per il momento va bene così, alto, sto facendo una cosa pulita e ordinata, non le voglio roba in mezzo ai piedi, intanto non è che mi interessa più di tanto, giusto per fare due prove, per farle andare come fa Gianni. Basta, capito? Scappa una bomba e sta radio. Avanti, incubate ancora meglio. Sì, alto 5 watt, ne aveva 3 e mezzo, 3 modulati, 3 e mezzo, dai. L'ho portato a 5 watt, mi ho aperto su internet il manual service e mi ho regolato lo smitter che era basso, infatti hai visto che ti ho fatto mettere la portata a te, regolato lo smitter e dati 2 watt in più, dai, 2 watt e mezzo in più. E va bene così, lo lascio così, l'ho richiuso, a posto, ho messo a posto l'autoparlante che era attaccato da Pezzoloni, l'ho riavvitato, c'ha delle vittine, evidentemente erano svittate. Va bene, no, non mi interessa fare altro in questa radio, devo solo mettere il connettore a 5 e attaccare l'MBP5 che domani vado e me lo ritiro. Ok, dai, vi saluto per il momento, rimango in QRX, se ci siete ci sentiamo dopo, vai già. Ehi, ciao Claudio, dai, buona passeggiata, avanti. Ciao Cla, buona passeggiata, ce la risentiamo. Se ne prende il blocco di vento, mamma mia. La mia antenna è piegata, poi c'è a toccare a terra. Un po' così bigia questa antenna, però con le antenne lì si piegano, ma regolo il vento, a 160 km lo regolo. Chi è che sta chiamando? Sì, avanti! Già, chi è? Forse ti arriva a te. Non l'ho guardato il segnale, ma me ne immaginavo che ti rispondeva così. Lo fa di culo culo e ci guadagna il pane, tanto non ha un cazzo che fare. La pernacchia ha fatto. No, tenta, figliale in culo. È passimo nei vecchi. E lascia Rubigi, tanto non sarà quello che abitava vicino a casa di tuo padre. C'è uno che sta facendo chi è? C'è uno che sta prova . Io non intendo, e tu? Ce l'ha più inteso via. Che è avanti? Non so, forse qualcuno vuole entrare, sta provando il microfono. Avanti che vuole entrare su 10, io mi sto preparando già, avanti. Ma fanno solo per rompere, basta. Ah, vabbè, ma ha chiamato Antonio a pigliarla in culo, ha detto. Tu non vuoi dire, passa buon invece. Ci avrà giudizio. Sì, vabbè, magari qualcuno che ti conosce sta scherzando, vai. Non succede niente quando è così. Ci si può mettere a ridere, meglio che uno entri a rompere le scatole invece. Già va bene, dai. Riprendi Gianni, che mi metto. Cazzo, no, non so cosa ti dico, che mi metto il pantalone, perché con il pigiama c'è troppo freddo. Ma io mi metto la tuta sopra il pigiama, facendo così, così quando torno a casa mi tolgo la tuta e seguo il pigiama. È vero, dai, me la sua pigiama e metto la tuta sopra. E ce l'ho già caldo, se mi cambia adesso piglio freddo, cazzo. Ehi, vabbè, no, freddo c'è, adesso ci ho aperto la finestra, c'è un'aria gira, cazzo qua ci sono 24 gradi, fuori ce ne saranno 12 minimo. Anche perché a te ce l'ho portato verso le 4 e mezza, perché stava lamentando, veniva da me, più compreso, datevi andare. Sono andato giù per della diarrea. Già capita, il mio, vabbè, la settimana scorsa ha regurgitato, quindi magari il tempo, al caldo, al freddo, già, cioè, questi cani stanno molto al caldo, molto al caldo, e quando escono i migliaia che maranno, qualche congestione, capito? E allora, sono abituati a stare tutti coccolati a letto, qua, là. Mi Antonio lo conosce bene, a caso, cazzo, arrivati si ruba, se ne rama niente. Esatto, a me, come trovino quella pallina ci può aggiungare. E quello invece io a lui, è tutto coperto, col plaid, è caldo caldo, c'ha le orecchie calde calde, tutto il corpo caldo. E lo porti giù, c'è un cambio di temperatura allucinante, è chiaro che il cane ne risente, capito già. Sono abituati così, sono tutti coccoloni. È un casino, E perché bisognerebbe mettere il cappottino, ma per il tuo cappottino si una sciappa. Già, Tyson, questo qua li sto spostando, non ne sto più mettendo. Monello, è Monello. Non è Monello, è cane da guardia. Se non ti conosce così, lo sai cos'è che ho sbagliato? Io ho aperto la porta e mi sono allontanato 5 minuti per spegnere la luce. E praticamente lui ha approfittato e è uscito fuori. Non ripariamo io la musica, ma ha visto la polpa tu. Ah, ma no, già. Oh, ma già ne me l'ha presentato subito. Quando mi vedi mi fate rivesti, non ce n'è problema. Dai, vado a scoprire a quel delinquente, se no lo faccio raffreddare un pochino, perché va la reci buttendi, sia nei biglietti che malano. Ci sentiamo dopo, ragazzi, dai. Eia, Antonino, fermo quello ci parlati. Che ti seguisci tu pure. E quando vedi il cane, sempre, t'ha giudito che ha avuto mosso al polpaccio a quello che porta le pizze l'altra volta, cazzo, ma non era un abbuccato. No, Teso lo stava solo ringhiando e basta, però se stai fermo non ti fa nulla, solo se ti muovi ti salta addosso. No, Filippo parte, come apre la porta a parte ti parte sopra. Capito? C'è la porta socchiusa, ha preso col muso, l'ha aperta, con la zampa, invece ci dovura. E l'ha pigliato subito. Maledetto, cazzo. È allucinante. Mi ha allucinato, cosa ha detto quello argentino. Il quello inglese è maledetto. Sono cani bravi, ma sempre meglio non fidarci. Sempre meglio non fidarci. C'ha le denti, cazzo, allucinanti. Vabbè che abbatte i vettori, cazzo, ma non dicono. C'ha due laterali. Cazzo, gioca alluminio come io, cazzo. Sta grampa, cazzo, di scepideggio. Dai che vado, ragazzi, vai, bombolo, e tu non ci andrai a casa di Gianni. Quando vai, devi prima chiedere permesso a Tyson di entrare. Beh, poi forse, adesso come se i padroni sono i cigani. Cuventi, Arezzo, a chi Arezzo gioca? Oh, no, ma chi è Arezzo? Cosa ti stavo dicendo? Che io il bulldog, Claudio, me li ricordavo più grandi, grandi, non così bassi, più alti me li ricordavo. Quando ero piccolo mi ricordo che li vedevo, però erano più grossi. Ma per mio è il più alto che c'è, a Sassari non c'era neanche uno, perché è un fuori Italia. Tutti i fuori Italia hanno l'altezza di Filippo, perché il mio è alto quanto il tuo. Se tu vedi quelli normali, le passano sotto a Filippo. Qua c'è, cosa si chiama, Birillo, Birillo che è un maschio come Filippo, ma li passa sotto, è molto più ciccione, ha le gambe molto più corte, capito? No, ma adesso se puoi fa confidenza, che io vedo che per dire lo accarezza Antonio e cose del genere, li faccio caro caro. Dopo lui li salta addosso, li fa le feste. Ma te ricordi a me quando sono entrato? Mi questo è un mio amico. Vieni, vieni, mi hanno usato, fate, che bello che sei, vieni, cazzo, vieni a me, sempre sopra salta adesso. Poi anda, piglia la pallina e la porta e vuole giocare. Invece a te non ti ha preso subito l'impatto, ma perché tu già non gliel'hai fatto, non gliel'hai presentato come ha fatto a me. No, non hai sentito cosa è successo, Antonio ha suonato. Io sono aperto la porta, l'ho lasciata socchiusa e sono andato a spegnere la luce. Praticamente quando io sono andato a spegnere la luce, lui ha aperto col muso la porta, è uscito fuori. Antonio, come è uscito dall'ascensore, si è acciappato da là. Ah, e come ha fatto quello là? Ha suonato quello delle pizze soldi dalla base del mobile e della Iafura. Aiuto, aiuto! E ha subito dato un grido, è partito Trento. Ho detto, infatti, ce l'ha fatta male, come mai ti ha fatto? Si è controllato, ci aveva un segnetto, però non l'aveva bucato, capito? Fortunatamente, se no era un casino. Poi è tornato e mi ha detto che non è successo niente, beh. E bisogna stare attenti con i chiavi. Purtroppo bisogna stare attenti. Dai che guarda, ragazzi. Antonio, riprendi. E cappa, bisogna stare attenti. Brutto passaggio. Specialmente chi fa le consegne, Antonio, come è capitato a me, che era giù con la caccia di la birra, un cane, avevo chiesto alla padrona se... Non sai dove, Claudio? Nella villa di Dottor Pani, se è tanto lontano. Sono andato in via Sacchi a consegnarle la roba. Le ho chiesto alla signora, ma non è che musica? No, no, non fa niente, che se non mi ha musicato un polpaccio. La giù con la birra è nata. Sto cazzo di vento mi ha rotto i coglioni, Ogni tanto mi fa difetto. Chi? Vento. Ma sei brutto vantaggio, cazzo. Ehi, ma già ti so. Ma la papa. Stavo capirando. Come vedi che sta andando male? Ah, pensavo con quello che stava facendo la portata poco fa. Lo so. Sta mancando di radio. La raffica, domani salgo su e vedo se c'è qualcosa mollato. Grazie un po'. E magari te l'ho detto che quell'antenna lì con l'umidità dà problemi. E tu vai, tu hai cosa dato i problemi, non i dati. Che l'ho ingrassata bene, però so già dai forum, da tutto quanto, che quell'antenna la sconsigliano tutti. No, è quando fa la raffica di vento, che sicuramente lo sub qualcosa si muove, dà problemi. Ma vedi che sta andando bene. E allora, chi lo sa cosa succede sopra, Adesso tu telefono, dai, che devo prendere la pizza, se no non me ne portano più, ve la regalo io a Londres. E a Londres non trabagliano i più, no, entro le 10. Vai già, se no un casino. No, già la possono portare, da sporto la possono portare anche dopo. Davvero? Certamente che sì, loro sì, devono avere il foglio della pizzeria come loro stanno lavorando lì, perché Claudio mi stava dicendo che a due portapizze li hanno fermati, li volevano prendere anche le moto perché portavano le pizze senza essere assicurati, eccetera. È un giramento di balle, Ma questi poveracci, cazzo, si vogliono fare due soldi, lasciali lavorare, cos'è meglio che vadano a rubare? Ma è quello che non capiscono un cazzo, Vabbè, ci sentiamo a tu, dai, buona serata e buona domenica, ciao. Oh, claro. Ciao, ce la risentiamo. Se no qui di chi c'ha rafficcona di vento funziona tutto bene. La mazza che non ne fare, domani a sta sopra controllata. Oh, cacca.